ed eccoci tornati in onda per la terza e ultima tranche di Star Trek Viaggio nella storia della musica. Questa sera uno speciale dedicato alla kermesse canora del Festival di Sanremo. Abbiamo ascoltato varie canzoni degli anni 80 e concludiamo in questa tranche con altre canzoni sempre degli anni 80. Non so se ricordate, in quel periodo c'era il blocco sovietico e l'Unione Sovietica, come altri stati appunto comunisti. In fatto di musica, pochi artisti insomma riuscivano a sfondare in quelle terre, però qualche artista italiano ce la fece, e con merito direi. Andiamo a ascoltare uno dei tanti che in quel periodo riuscì ad arrivare a Mosca, e non solo a Mosca come successi, però apprezzatissimo anche in Germania e in Francia. Si può definire il simbolo degli italiani all'estero. Sto parlando di Toto Cutugno, che ci presenta il suo classico L'Italiano, portato al Festival di Sanremo negli anni 80 con grande successo, in una tournée poi che si è susseguita in giro per tutta Europa. Ascoltiamoci il grande Toto Cutugno con L'Italiano. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Era Toto Cutugno con L'Italiano. Questa canzone veramente ha fatto un successo planetario, ha venduto un sacco di dischi in Europa, in Francia, in Germania, in Belgio e non solo. Era il bel Sanremo di una volta che con piacere si ascoltava la sera, magari dopo Sanremo era primavera. e stiamo sempre dedicando un angolo appunto del festival a quei cantanti che sono riusciti a sfondare non solo nel nostro territorio ma anche all'estero. E ce ne sono veramente tanti, io ne ho selezionati tre. Il primo l'abbiamo sentito. Poi c'è stata, sempre negli anni Ottanta, una band, perché potremmo definirli così all'inglese, vabbè. È che mi suona strano definire i ricchi e poveri band così. Forse è meglio definire il gruppo. Ecco, anche loro hanno ottenuto dei successi planetari in tutta Europa, non solo in Italia, magari con dischi che qua non è che avessero avuto un certo riscontro di pubblico, però in Russia, in Germania, in Francia, nei paesi dell'est, sono ancora oggi dei miti. Direi, oggi sono forse più famosi all'estero che in Italia. La contraddizione del successo del sistema. Magari negli anni Ottanta eri qualcuno, vendevi tanto, avevi un buon riscontro di pubblico, oggi magari vieni completamente dimenticato. Noi ascoltiamo appunto questo trio troppo bravo. Eccoli qua, ti arrivano. Erano i ricchi e poveri. 30 minuti dopo le ore 24, sempre in rigorosa diretta con Andrea, dell'ascolto di Star Trek, viaggio nella storia della musica. Star Trek, quest'oggi è Sanremo Memories. State ascoltando la terza parte. Un saluto anche a chi ci ascolterà in podcast. Grazie veramente tanto. Abbiamo ascoltato due artisti, insomma, anzi, un artista e un gruppo che, come vi dicevo, hanno fatto un successo planetario non solo in Italia ma anche all'estero. Questi erano Enrique Poveri con Voulez-vous danser. In precedenza abbiamo ascoltato invece Toto Cutugno con la canzone dal titolo L'Italiano, altro brano che vendette tantissimo in tutto il mondo. E nelle file di Sanremo Giovani negli anni 80 c'erano un sacco di artisti emergenti molto bravi che poi sicuramente dopo alcuni anni ne abbiamo sentito parlare in bene. Tra questi giovani c'era un ragazzo romano di Borgata che amava molto il pallone, aveva giocato anche nelle giovanili della Roma, però la sua vera passione era la canzone e si affacciò a Sanremo intorno alla metà degli anni 80 con semplicità, così no, in punta di piedi, e in punta di piedi arrivò il suo primo successo. Era appunto Eros Ramazzotti. A Sanremo Giovani aveva proposto questo brano dal titolo Terra Promessa. Veramente da Sanremo ai giovani, Eros Ramazzotti con Terra Promessa. E poi da Promessa è diventato grande artista negli anni seguenti, con un sacco di dischi venduti, un sacco di successi internazionali ma anche italiani. Bene, siamo giunti al termine per questo speciale dedicato al Festival di Sanremo. Magari ne faremo un altro nei prossimi giorni con canzoni un po' più divertenti, tanto per ridere un po'. Io vi saluto, vi rimando l'appuntamento a Dio piacendo nei prossimi giorni con altre dirette, altre trasmissioni interessanti. Avete ascoltato Star Trek Viaggio nella storia della musica, speciale Sanremo Memories. Potete lasciare dei commenti se volete sotto in chat oppure direttamente sul mio sito www.startrekonline.org. E ora, come la dolce melodia di Fausto Papetti, le luci si spengono e un altro giorno è arrivato. Grazie per avermi ascoltato. Un abbraccio a tutte le ragazze e una stretta di mano a tutti i ragazzi. Buonanotte dal vostro Andrea. Ciao, ci sentiamo nei prossimi giorni, magari anche domani, da chi lo sa. Ciao ciao.